Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. E dunque, poco da dire, se non che è fatta, è stato raggiunto poco fa, lo avrete sentito anche in GR24, ma i dettagli stanno fluendo proprio in questi minuti, l'accordo a Bruxelles con il Consiglio europeo, che è arrivato dunque ad un'intesa sul Recovery Fund, sul fondo per la ripresa post-Covid. Saranno 750 miliardi, ci saranno ovviamente dei meccanismi di controllo non così rigidi come immaginavano i cosiddetti paesi frugali, e ci saranno più soldi per l'Italia rispetto a quanto previsto inizialmente, anche se aumenta la quota di prestiti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:31 minuti, è martedì 21 luglio e come dice il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, l'accordo è fatto. Well, good morning everyone. We did it. Europe is strong. Europe is united. Nous l'avons fait. L'Europe est solide, l'Europe est robuste et surtout l'Europe elle est rassemblée. We have reached a deal on the recovery package. Ed eccolo qua. Abbiamo raggiunto l'accordo, l'Europa è unita, dice Michel. E già parte qualche ascoltatore. Matteo da Bergamo che dice: per i comuni mortali ci spieghi se è un accordo buono per l'Italia oppure no? Sarà da analizzare, caro Matteo, non ci sono su queste cose delle risposte immediate. Allora, il primo punto è questo, mi pare, che si è trovato un accordo su qualcosa di storico, cioè un passo forte verso l'Europa unita. In maniera iperbolica qualcuno potrebbe anche dire che è simile a quello che è stata la moneta unica o l'apertura dei confini interni anche al movimento delle persone. Di certo l'Europa si è trovata divisa nella trattativa, ma alla fine è unita in questo accordo. Andremo tra un attimo anche un po' nei dettagli, quelli che conosciamo. Un altro ascoltatore ci scrive già al 349-238-6666, dice, chiede già un giudizio politico. Bravo Conte? Apparentemente sì. Apparentemente, lo dico perché dobbiamo vedere, come chiede un altro ascoltatore, cosa hanno ottenuto effettivamente i cosiddetti frugali. Mamma mia che brutto termine. In tutta questa attualità incalzante non vorrei dimenticarmi della squadra di stamattina. E per carità, Carmelo Lauricella in regia, siamo arrivati qua di corsa. Miriam Lucchetti in assistenza in redazione insieme a Giorgio De Luca e Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Iniziamo a sentirci anche qualche passaggio dell'intervento di poco fa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Via! Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Siamo all'alba del quarto giorno di una vertice lunghissimo, un Consiglio europeo, forse abbiamo stabilito il record, anche abbiamo superato per durata il vertice di Nizza. Siamo soddisfatti, abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso, adeguato a queste necessità che stiamo vivendo, che ci consentirà di affrontare questa crisi con forza, con efficacia. Le cifre, dunque sono 750 miliardi, adesso vi recupero distribuiti come tra prestiti e soldi a fondo perduto, posto che ricordatevi che i prestiti comunque sono con scadenza lunghissima e con tassi molto bassi, quindi insomma, se non è un fondo perduto poco ci manca. È un momento storico per l'Europa, è un momento storico per l'Italia, la nostra richiesta, la convinzione che abbiamo nutrito in questi mesi, la visione, la determinazione con cui abbiamo perseguito questo obiettivo sono state premiate. Il piano di rilancio che abbiamo approvato è davvero molto consistente, 750 miliardi, dei quali una buona parte andranno all'Italia, il 28%, parliamo di 209 miliardi destinati all'Italia. Ancora Conte, ce l'abbiamo, Carmelo, vai. Addirittura abbiamo anche migliorato l'intervento a nostro favore, se consideriamo la proposta originaria della Commissione europea, della Presidente von der Leyen. Abbiamo conservato gli 81 miliardi a titolo di sussidi, abbiamo incrementato notevolmente l'ammontare, l'importo dei miliardi concessi in prestito. Sono passati da 91 a 127 miliardi, registrando un incremento di 36 miliardi. Non sfugge tra l'altro al Presidente del Consiglio, che su questo ha fatto qualche dichiarazione, l'impatto di politica interna, no? Il governo italiano è forte, la verità è che l'approvazione di questo piano rafforza l'azione del governo italiano. E dice anche, ma su questo ci arriveremo perché questo potrebbe essere uno spunto invece di tipo diverso, spero che con l'approvazione del Recovery Fund cali l'attenzione morbosa sul MES, il fondo salva stati, perché qua il punto è che quando arrivano questi soldi del Recovery Fund a partire dal 2021 inoltrato, e quindi forse invece l'accesso ai fondi del MES potrebbe essere utile, però insomma saranno valutazioni che andranno fatte quando avremo in mano tutti i dettagli dell'accordo. E però possiamo forse iniziare a ragionarci sopra, a commentarlo. E lo facciamo con Veronica De Romanis, economista, docente all'Università Luis Guido Carli di Roma, membro al comitato direttivo dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. De Romanis, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua. Buongiorno. E abbiamo anche una collega frugale, ti possiamo chiamare così, Andrea Frede, giornalista radio-televisione olandese, corrispondente per la radio-televisione olandese e belga. Buongiorno Andrea, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, De Romanis, una prima valutazione. Insomma, senza dubbio è storico l'accordo, no? Ha un impatto fondamentale. Si era visto che ci si sarebbe arrivati da quanto è durato questo Consiglio europeo, no? C'era la volontà di dare un segnale forte che l'Europa c'è, anche perché nella precedente crisi era stata molto più lenta la risposta europea. Questa volta sì, 4 giorni di negoziato, ma è un accordo importante, un accordo che rafforza il progetto europeo e fa un passo importante verso una maggiore integrazione fiscale, perché si introducono un debito in comune europeo, un debito futuro, non un debito pregresso. Quindi questo è molto importante. L'ammontare è significativo. L'Italia è il paese che ne esce, diciamo, meglio in termini di somma finale, perché come avete fatto sentire dalle parole del Presidente Conte sono oltre 200 miliardi con una buona parte di sussidi, il resto 127 sono prestiti. L'Italia tra l'altro è l'unico paese che da contributore netto passa allo stato di beneficiario netto. Cosa vuol dire? Che l'Italia otterrà più di quello che darà in questo nuovo strumento. Quindi da questo punto di vista un vero cambio molto importante. Però direi che come tutti gli accordi, tutti i leader possono dire che hanno ottenuto qualcosa. Ah, questo accade sempre, no? Al termine di ogni Consiglio europeo, che ognuno si presenti al suo elettorato e dica: siamo stati bravissimi, è l'accordo che volevamo. Su questo fronte, Andrea Frede, vorrei chiedere a te una valutazione su, innanzitutto, su come si è mosso Mark Rutte, secondo alcuni un po' grossolanamente, però forse era semplicemente un modo di spingere da un lato la trattativa, mettersi alla guida di un gruppo di paesi per fare quasi da contraltare all'asse franco-tedesco, quindi un elemento di politica europea e poi un elemento di politica interna sicuramente. Secondo te come ne esce da questo Consiglio europeo? Sicuramente Rutte ne esce al confronto degli olandesi molto bene, perché ha raggiunto degli obiettivi importanti. Prima di tutto per l'Olanda era molto difficile digerire il fatto che dai 750 miliardi c'erano molti sussidi e meno prestiti, 500 miliardi di sussidi prima, 250 di prestiti prima. Adesso questo rapporto è cambiato molto, 390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti, quindi molto più equilibrato. Questa già è un successone, dice Rutte. Poi il fatto che l'Olanda ha avuto uno sconto maggiore, no? Il rebate dell'Olanda in futuro all'anno sarà di un quarto in più, quindi 1,9 miliardi, e non è male. E anche il sistema di controllo, Rutte ha voluto un sistema di controllo molto forte, non tanto perché c'è tanta diffidenza nei confronti dell'Italia, più che altro perché in Olanda regna un po' l'idea che la Commissione europea in passato, quando paesi importanti come la Francia, come la Germania, la Germania stessa, avevano infranto la regola del 3%, non veniva fatto niente. Quindi Rutte ha detto: qui parliamo di soldoni, qui dobbiamo avere un metodo di verifica. E adesso c'è, non il veto di un paese, come avete spiegato, ma un controllo a maggioranza qualificata da parte della Commissione, quindi comunque qualcosa di controllo c'è. Per quanto riguarda la politica interna, Rutte ha a che fare con delle elezioni tra un anno, e anche all'interno della sua coalizione con i democristiani una grande rivalità, quindi non sono tanto i sovranisti, l'ultradestra olandese che gli dà fastidio, ma all'interno della coalizione, il partito di coalizione, i democristiani, CDA. Quindi questa è una cosa importante. E per ultimo, sì, Rutte ha bisogno di farsi valere. Una volta l'Olanda aveva come grande alleato il Regno Unito, anche se il Regno Unito ha sempre fatto un po' dire la difficile all'interno dell'Europa, adesso sono usciti e quindi adesso Reuters cerca di crearsi un nuovo rapporto di potere insieme ai paesi cosiddetti frugali, quindi Questo in sintesi il ruolo che ha svolto l'Olanda all'interno di questo Consiglio europeo, i Paesi Bassi che hanno svolto all'interno di questo Consiglio europeo. Sentiamo ancora, perché stanno fluendo intanto le dichiarazioni, come vi dicevo, ci sono sicuramente quelle arrivate poco fa da Angela Merkel, che poi è stata pubblicamente ringraziata sia da Charles Michel che dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, la quale ha detto di essere molto contenta dell'accordo raggiunto al Consiglio europeo. Ricordatevi che la Germania in questo momento è presidente di turno dell'Unione europea. E ancora Emmanuel Macron, il presidente francese, che non ha taciuto le difficoltà anche politiche sottostanti a tutto questo, ha detto: è stato un vertice le cui conclusioni sono storiche. Però questa lunga trattativa è stata caratterizzata da difficoltà, opposizioni e visioni diverse dell'Europa. Poco fa, come vi dicevo, fluiscono le dichiarazioni, sentiamo ancora Conte sulla quella che definisce la salvaguardia della dignità del paese. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro paese, ma abbiamo anche agito per tutelare l'autonomia, le prerogative delle istituzioni comunitarie. Abbiamo respinto in questi giorni anche tentativi insidiosi in qualche modo di alterare la genuina vocazione di questo progetto europeo, inserendo, facendo intervenire logiche intergovernative e la logica dei veti incrociati. Anche questo è un buon punto. Ci arriviamo tra un attimo dopo il traffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora ora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Mattino. Veronica De Romanis, due messaggi di ascoltatori ci portano su quelli che sono a questo punto i due snodi centrali interni. Il primo: adesso sti soldi non mettiamoli in qualcosa tipo Alitalia o i Navigator, e quindi il tema di come li spendiamo. E l'altro ascoltatore che dice: quindi i soldi alle imprese quando arrivano? Ed è la questione dei tempi, che sono i due elementi centrali a questo punto, no? Ma l'ascoltatore proprio dice la cosa più importante: ora arriva il difficile, abbiamo i soldi, dobbiamo spenderli bene. E appunto l'ascoltatore fa due esempi di spesa non delle migliori. All'Italia abbiamo speso moltissimi soldi a carico dei contribuenti, è servito poco, e i Navigator sono stati un vero flop. Ecco, qui ci vuole il coraggio di dire la verità e di fare veramente un'inversione di rotta se si vuole dare un cambio al paese, perché una cosa è ottenere i soldi, una cosa è fare in modo che questi soldi portano a una vera crescita, cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno. I tempi è l'altro elemento fondamentale, perché i soldi arriveranno solo nel secondo semestre dell'anno prossimo. Ecco che a mio avviso è fondamentale avere un'altra dose di coraggio, quella del sì al MES, anche perché non solo questi soldi del MES sarebbero disponibili subito e sono necessari per la nostra sanità, e infatti tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario dicono assolutamente prendiamoli, ma anche perché sono molto meno condizionati rispetto al Recovery Fund. Quindi dire oggi no al MES e sì invece a quelli che ha ottenuto Conte questa notte non ha veramente più senso. Tra l'altro ricordiamoci che quelli del Recovery Fund sono anche monitorati in maniera piuttosto stretta da 27 paesi, mentre l'accordo del MES è un accordo, diciamo, del paese dell'area dell'euro, quindi sono 19. Diciamo che su quattro frugali ne abbiamo due in meno che ci controllano, mettiamola così. Però a parte le battute, è necessario fare un'operazione di verità e avere il coraggio di prendere questi soldi subito, investirli nel settore sanitario, mettere in sicurezza il paese, perché bisogna fare in modo di far finire il prima possibile la fase di emergenza e cominciare la fase di rilancio, che potrà essere possibile grazie ai finanziamenti e al Recovery Fund. Sì. Anche se sul MES c'è uno stigma politico che renderà difficile anche dal punto di vista parlamentare che lo si utilizzi, nonostante abbiamo spiegato più di una volta anche a questi microfoni che non è lo stesso meccanismo che vale per il fondo salva stati nel suo utilizzo tradizionale, però ci sono pezzi di politica che su questo non ci vogliono sentire, pezzi di opinione pubblica ai quali questi pezzi di politica rispondono. Andrea Frede, tornerei da te sul tema delle critiche che sono appuntate sull'Olanda per la sua politica fiscale di favore nei confronti delle multinazionali, le accuse di essere un paradiso fiscale. Quanto ha influito tutto questo all'interno della trattativa, secondo te? Secondo te alla fine l'Europa di fatto l'ha ignorato? Guarda, difficile dire. Io so che nelle raccomandazioni che manda l'Europa ad ogni paese, no? Con le cose che sarebbero ancora da fare in quei paesi, riforme, cose da migliorare, cose che non vanno bene, da anni risulta nei confronti dell'Olanda la critica di essere troppo come dire, gentile con le multinazionali, di avere un sistema fiscale per più che altro sono sconti e sono incentivi per le grandi aziende di mettere la loro sede legale in Olanda. Quindi c'è tanta critica dall'Europa. L'Olanda ha fatto qualcosa, insomma, delle restrizioni sono state fatte, ma in effetti ancora dà molti vantaggi a queste grandi aziende. Io direi che peccato che l'Italia nel frattempo non abbia cambiato il suo diritto aziendale e soprattutto il sistema fiscale nei confronti delle grandi aziende, che così magari la Fiat ritorna. Però questa è un'altra cosa che da parte mia. Quindi l'Olanda sì, è stata criticata. Noi ci giochiamo sempre, Andrea, te lo dico, noi qua ci giochiamo sempre un po' dicendo sì, sarà pure un paradiso fiscale l'Olanda, sì, però l'Italia è un inferno fiscale, quindi... Appunto, lo so perché io ci vivo qua. Lo so. Sì, quindi non penso che sia stato un grande rilievo stanotte, però alla fine sapremo più in là. Alla fine no. Allora, abbiamo parlato lungamente del Consiglio Europeo di questa notte. Giustamente, se poi, cari ascoltatori, volete continuare a intervenire, a dire la vostra, c'è cioè il 349-238-6666 per gli WhatsApp audio. Fate anche sentire le vostre voci, naturalmente, che ci interessano. Io ringrazio intanto Veronica De Romanis e Andrea Frede per essere state con noi, perché gli ultimi 3-4 minuti ce li prendiamo anche per altri argomenti, perché è chiaro che questa è la notizia della notte, ma non è successo solamente questo e non ci sono solo le voci di Conte o di Charles Michel da farvi ascoltare, perché resta aperto, a proposito di questioni economiche, tutto il tema delle tasse, del pagamento delle tasse. Ieri era la prima delle scadenze, poi ce ne sarà un'altra, ce ne saranno altre il 30 di luglio, altre il 31 di luglio. Ne abbiamo parlato lungamente, ci siamo tornati in settimana. I commercialisti con Ferrari dicono di essere pronti a scioperare. Ci stiamo preparando a far battaglia, ci stiamo preparando, sicuramente noi abbiamo il diritto a scioperare, utilizzeremo questo diritto che non abbiamo di fatto quasi mai esercitato, pur nelle vicende molto difficili che colpiscono il fisco in questo paese. E stiamo pensando anche a forme alternative più incisive, come dire, dello sciopero. Così Sangalli di Confcommercio. Il mancato rinvio delle scadenze fiscali è un errore per due motivi. Peggiora la situazione del sistema imprenditoriale già in grave difficoltà per la crisi e alza il rischio chiusura delle imprese, con un impatto negativo sui conti pubblici ben maggiore rispetto a quello della proroga. Che, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il fatto di far pagare le tasse adesso, il 20 di luglio, usciti da poco dal lockdown, mette tutta una serie di aziende in grande difficoltà, perché semplicemente non hanno fatturato negli ultimi 3-4 mesi e quindi non hanno i soldi in cassa per pagarle. Molte sceglieranno la data del 20 agosto, c'è una proroga anche là con la possibilità di pagare una mora dello 0,4%, quindi molto bassa. E però il peso resta. Ieri la ministra Lamorgese è stata invece a Lampedusa, dove sono proseguiti gli arrivi, con qualche contestazione è arrivata. Scafisti! Scafisti! Scafisti! Scafisti! La quale ministra Lamorgese si è poi incontrata con il sindaco e ha assicurato che a tutte le persone che arriveranno sul territorio lampedusano verrà fatto il test sierologico. Voglio chiudere però con la giornata di ieri, nella quale alla Camera dei Deputati si sono ricordate le vittime del Covid, e vi voglio far sentire un passaggio, il passaggio e l'intervento di Filippo Sensi del Partito Democratico, che in aula si è limitato a far questo dopo una breve introduzione, a leggere i nomi dei medici che hanno perso la vita. Vorrei tacermi e lasciar parlare soltanto i nomi dei dottori che si sono presi cura di noi, quelli ai quali, assieme agli infermieri, il personale sanitario tutto, ci siamo rivolti ogni giorno perché rischiarassero le nostre angosce, le nostre paure, quelli che questa paura l'hanno messa da parte e pianta magari in segreto per curarci, o provare a farlo, e consentirci così oggi di piangerli e di nominarli semplicemente. Di dire, e dire grazie a Roberto Stella, Giuseppe Lanati, Giuseppe Borghi, Raffaele Giura, Carlo Zavarit, Gino Fasoli, Luigi Frusciante, Marco e Mario Giovita. Questa Luigi lunga Ablone. Lista di nomi letta alla Camera. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.